bene, va bene. Bello bene, adesso cosa mi racconti di te? E io, lavoro a casa, lavoro, cosa ne faccio? E anche mi credo che non vado a lavorare. Yeah. ci sentiamo dopo, Giuseppe. Ciao Roberto, buon successo, buona carica di titolare. Sì, ciao Giuseppe, ciao. Né poveri né belli né brutti, quello lì ha fortuna. Assurda, è troppo. Chi c'è roba vera? È il cuore di Riccardo. Ma è già stato bello, buonasera. Sì, sono andato lui. Sono andato, nel senso con mia moglie dopo pranzo. Oh vabbè, mi chiede molto, faccio la sua doccia. E io. Mi capizzato c'è. La moglie ci ha raccontato che è andata a accompagnare il nipotino, si è fermato giù con un signore perché stavano parlando del palazzo che dovevano andare a finirlo, no? Perché gli ossa stavano restaurando e dovevano pitturare, doveva andare l'ingegnere per vedere se tutte le cose erano state fatte bene, e infatti siccome tu era di quelli che si interessava sempre, dovevano trovarsi con questo signore e siamo un appuntamento per l'indomani, ci vabbè, domani mattina ci vediamo qua alle 9. Quando lo siamo tutto quello lì che è morto diceva Durai Burai. Comunque poi tornato a casa e la moglie, e lui gli ha detto alla moglie, cosa fai? Vai tu prima al bagno, vado io a farmi la doccia. No, dice vai tu, vai, dopo già entro io, stavo aspettando a farmi la doccia io. E lui non usciva più, sentiva l'acqua scende, allora l'ho chiamato, Tore, e non rispondeva. Allora ho preso, dice, meno male che aveva fatto un mezzo giro di chiave, non aveva fatto il giro, ha dato un colpo alla porta e si è aperta. Come si è aperta l'ho visto accasciato, rannicchiato da una parte, e invece aveva anche un segno in faccia, perché si è sbattuto alla doccia. Diciamo che è un infarto fulminante, passa poco. Sì. È rimasto secco subito. Ma che ieri, fate, scherzando con me, con una che non ero educato, allora mi fu accolta da lì, due alla spalla. E poi sono a posto, mumma, e c'aveva praticamente questi, stava vendendo questa coppia di uno solo tre, due a tre, e lui, no? Io lo stavo vendendo, un fuori, io, che sentivo anche male laterale, non so, di quelli piccolini. E voleva 150 euro per questo fuori, portatile. Niente, stavo scherzando così, no, per far lui. Subito. Era buio, Poi stamattina la mano l'hanno detto. Dice, è arrivata la voce del mare che era deceduto il dottore. Era lo stesso infarto. Infatti poi, mi ha dato conferma tu. Sì. Non per me è successo. Dubbio, allucinante, hai visto? Oggi bisogna domani non si sa. Purtroppo sì. Mi figli non si davano pace, dice non riesco ancora a capacitarmi, non riesco ancora a crederci, il figlio ha detto, boh. Arrivati si sono buttato la dottaga che il figlio mi ha detto una zeminata, che ho beccato un lavoro buono e abbiamo fatto una festa tra amici, cose, sono tornato e mi ha detto, beh, sa come va, gli ha detto Tore, dice che era al computer e va. Cioè va bene, dai, ci siamo divertiti, gli avevo fatto una bella seminata e cosa. Abbiamo bevuto e mangiato e adesso si è messo cotturato. Dice, va bene, dai, ho messo il governo di pure a letto e basta, tutto lì. Dice, sembrava tranquillissimo. Però lui alla moglie gli aveva detto che si faceva la doccia perché voleva andare dal dottore, perché aveva qualche dolorino. Stava già usando, capito? Da qualche dolorino. La cognata gli ha detto sicuramente è roba influenzale perché sta prendendo dolori. Vecchi. Via. Un casino. Quanto arriva via già? 70? 72 mi pare. Non è neanche vecchio, so. Ah, ma poi era un affarista, una persona. Prendeva la roba, la comprava dai pesci, la rivendeva, prima lo faceva con le macchine, con le moto, se le rivendeva, erano sempre in affari. Lo so, poi vabbè, pazienza, la moglie doveva andare così, l'ha chiamata anche a lui, là. Perché era una persona molto forte, si valeva, no? E vabbè, non sarebbe preso con le macchinette. domani a mezzogiorno ci sono il funerale con un pastore, se vuoi andare. Io non ci posso andare, ma che sto lavorando e non posso. Ma se tu vuoi andare, sono a mezzogiorno con un pastore. Adesso vediamo già, domani a mezzogiorno. Qua c'è lui, è venuto anche il prete, e l'ha detto che prima non glielo poteva fare il funerale perché c'erano altre due messe, mi pare, che erano già state ordinate, le messe da morto, penso che fosse. E poi dice, guarda, per lui fu fatto lo spazio a mezzogiorno. Dubbo, allucinante. Ma una cosa allucinante, guarda, dubbo. E questo qua stavamo scherzando, ma c'è il vero. Cioè, l'hai confermato tu, ecco. Ecco, con Luca già si vedeva una cosa, meglio che lo avvisi, magari non sa niente. Ma non sai perché? Perché Lidia, come l'ha trovato la moglie, ha telefonato a Graziella. Praticamente la cognata è quella che abita in fronte a casa mia, quindi c'è le cose che sono fatte su. Ogni giorno, guarda, ogni giorno. Ogni adì. Non guardare del capo, l'antenna, e lui non ci sarà più. Guarda, guarda un pezzo. E poi lo doveva portare questo capo. C'è una roba da dare che lui non utilizzava più. Tipo cavi e malefare spezzoni. E poi stava cercando qualcuno che diceva, volevano attaccarsi l'antenna. L'antenna stava che era una VU e una per la 27, una piccolina però. Ma circa. L'ha chiamato prima del dovuto. Domenica era sul tetto, me l'ho visto io. Pensando. Oh, iaia, per carità. Io mi affaccio al terrazzo e lo vedo, no? E un'altra la capisciuria, c'è la pelle delle antenne e cose, invece stavo guardando il posto dove metterle, capito? E poi la faccio contro io comunque. Ma lui qualche piccolo disturbo mi ha detto Chiara, la figlia, che ce l'aveva. Ah, ecco. Praticamente allora, l'infarto quello ti si crepa il cuore già. Si spacca proprio. Ah, ecco. Ma non è morta così. Era in terapia intensiva. L'hanno mandata in reparto. Terapia intensiva sarebbe la rianimazione cardiologica. L'hanno mandata in reparto in camera con gli altri. Stanotte si è stata per andare in bagno. C'era una signora che stava aspettando tornarsi indietro per andare lì, non la vedeva tornare, allora è andata a vedere, l'ha trovata nell'antibagno in terra, ancora viva, che stava battendo il cuore, tutto quanto. Ha chiamato i signori gli infermieri, che stavano bevendo il caffè, ha chiamato gli infermieri, sono andati correndo, adrenalina, questo, quell'altro, era ancora viva quando l'hanno trovata, però si è grimbato l'orgoglio, perché poi un amico mio, quando gli hanno fatto l'autopsia, un amico mio mi ha detto che c'aveva un trinchisi allucinante. Lo stesso il mio fatto di mia madre, andava qui a questa campagna, così era contratto, arriva a posto lì in campagna, e poi c'è la macchina, si è accasciato l'uomo, si è fatto fulminante. Ma qua io ti dico una cosa, io preferirei un infarto così piuttosto che stare a soffrire anni e anni, magari con un tumore, con una cosa. Ti crepa di colpo, non ce la vedi nemmeno. Guarda, già, sono d'accordo con te. D'accordissimo con te. Infatti l'ho detto al figlio, guarda. Diciamo che non te l'aspettavi tutto qua, perché il figlio era un bel giugo, guarda. Cioè, invece è che andavano molto d'accordo col figlio. Io il figlio non lo conoscevo. Ho scoperto le figlie, tutte e due, a Chiara e a Carla, tutti e due le conosco molto bene, ma il figlio a Sandro non lo conoscevo, lo sentivo nominare, però non lo conoscevo bene. Solo che a Carla la conosco anch'io, dai. Un qualche anno, e poi guardavo con noi, passa tu, ti parlo una vecchia anni fa, parlo con noi, era innamorato di Gianni, era innamorata lì, Gianni mio amico. Infatti poi sono stati a cena, ma poca roba. A Carla conosco gli altri figli, no, sinceramente. Non so neanche chi siano, non ho mai visti. Ma il figlio quanti anni ha, perché più o meno? Il figlio, penso 48, così. Ah, è tua, là, più o meno, là, c'è un lì. Sì, sì, più o meno sì. Un po' più giovane di me, dai. Io ne ho 51. Un po' si tiene bene, dai, è una persona giovanile. Questo già non è di molti 51 anni tu, allucinante. Vabbè, me lo dicono tutti. Però ce li ho. Ce li ho. Come? E se non sono sempre attivo, sempre in movimento, quello vuol dire molto. C'era un 43-44 anni, più o meno, forse a poco, come di voi si proprio. Cazzo, c'è quanto è Natalino? Quanto è Natalino? 52, quanto è a lui? No, Natalino ne ha di più di me, ne ha 53. Vabbè, più o meno siete lì, dai. Quindi Natalino ne dimostra, e come? Tu no. Natalino ha fatto una vita un po' stressante, dai, con i genitori, malati e cose. Guarda, non è che lo sto criticando, ma dico, lui dimostra, cioè 50 erotani li dimostra, tu no, sei più giovanile, ecco, lo so, purtroppo è così. Ha fatto una vita stressante, è un giramento di palle. Poi vabbè, va. Faccia l'anima di vittoria, va. Io gli ho dato l'ultimo saluto perché ho detto domani non posso venire, come l'ho detto proprio a voce alta, ho detto ti saluto perché domani non posso venire al tuo funerale, sto lavorando, purtroppo a me i permessi non me li danno così, l'ultimo momento, capito? Devo fare la richiesta e casino. Vabbè, tu non riprendi, scusa se ti abbiamo un po' lasciato in disparte. No, ci mancherebbe. Certo che era una persona che conoscevate e cosa, non c'è problema. Ma dentro la bara era già? Sì, già dentro la bara. È morto in casa, amico, non è che sia andato all'ospedale, niente, 118 è andato lì, come hanno constatato la morte, l'hanno tutto controllato a vedere se aveva segni strani, tutto quanto, perché se con quello che succede dobbiamo controllarlo, lo sto controllando, se non è un infarto. La batteria cambia, vieni, vai via. Vabbè, va proprio fulminato, va. Ma pensavo che stavo scherzando, invece, allucinante. Basta, vabbè. Pazienza. Non dire non andare così. Possono fare niente, c'è troppo che vanno male, avanti Anto. Abbassa un po' il cursore, fai meno un assorbimento, già. La batteria ti sta scaricando. Adesso soltanto l'ha fatto, mi pare che avanti il bongo da base sul microfono, è attaccolato normale, te le coda l'apparecchio e via. Capo, no, adesso va bene, no, perché non va in assorbimento massimo. Capo. Vabbè, ma comunque ti è durata a me. Insomma, 2 mesi, vabbè, lo uso ogni giorno, tanto quello lì che c'è da contare quanto lo usi. Cosa vuoi di più? Un Lucano. Se passi qua domani te ne do una io a provare, a vedere quanto ti dura. Che batteria? Un altro. Capito, no? No, un altro. Yeah. E domani ci dobbiamo trovare domani. Però perché voglio contattare a vedere quanto ti dura. Se è buona come sto pensando io. Aspetta, ma non ci dobbiamo trovare intanto domani, siamo a Napoli. Sì, è trasporto già. Ragazzi. Vabbè. Purtroppo anche Tore, poverino, se n'è andato. Quanto può vedere finito il palazzo, che lui si interessava sempre di tutte queste cose, può finire a vedere finito il palazzo. Lo so, è più troppo. Quel paterra, un po' di voce. È terribile, cazzo. Un chizzo infarto, è micidiale. Chi è che fischiava? Ciao, buonasera, capito? tu? Sì, sì, bene, non ci siete mai ostacolo sempre, ma avete parlato per il tuo che stiamo volando. Se tu vai sul 10 non ci puoi sentire sul 21, scusa. Ma io qualche volte vengo qui non c'è nessuno. Molte volte sento le frequenze, che sono molto alte su di la ruota del 21, c'è Giuseppe che mi ha fatto. Giuseppe c'era anche stasera, guarda. C'era stasera, ha parlato con me Giuseppe. Poi, tu a Torre alla Verde te lo ricordi? È gravissimo amico io, Torre, cosa è successo? Morto oggi. Madonna, quanto mi dispiace. Lui lavora a Baltan, mi dispiace veramente, Torre, madonna, quanto mi dispiace lei. Lavora a Baltan, come con Torre ne siamo dei primi che abbiamo rinunciato la frequenza. Mi dispiace veramente, di Torre, ma ricordo molto. Un infarto gli è venuto, facendosi la doccia. Ma ti immagino. Quanto mi dispiace, Torre. Lo conoscevo, guarda, era venuto tutti i primi a trovarti, a me, a mio zio, al mio commissario. Era venuto lui, al Paolo e altri, proprio, sto parlando del 72 già. Torre, lo vedevo spesso, qualche volta da Portopello lo incontravo. Varie volte mi aveva fatto avere un, come si chiama, un Midland. No, Midland. Quindi ha disciplinato con il mobile in legno, mi dispiace veramente, guarda, sono mortificato già. Purtroppo io sono andato a trovarlo, dice, non sai che abita di fronte a casa. No, non so dove abitava, però ogni tanto solo lo incontravo e ho attività mercato, sempre quando ci presentavo, guarda, sono mortificato già, guarda, ho perso una persona come conosco a voi, io. Ripeto, sono amico stato. Apri due. Tante amicizie in frequenza e ho sempre fatto già, è come si chiama, una frequenza per sé è radio. Non ho mai guardato in faccia a nessuno, non mi è, anche la faccia ho fatto un discorso, non mi piace un chiaramente, non mi piace queste cose. Quando c'è gente entra a modulare, qui già ho sempre fatto l'altro, ci manca Pier Paolo, se lo avete sentito, ci manca Giuseppe, che abbiamo modulato l'ultima volta, mi sembra, che c'è anche tu qui. Spartolo già, questa volta non parlo con il canale taxa, questa volta è a sintonia continua, che sono a Maletto. Molte volte vanno di spazio 215, non vedo nessuno, non parlo, c'è gente nel 10, molto nel 10, io modulo dappertutto già. Che apparato stai usando adesso? Okay, sto usando un IC-728, un HS con Mike Limpieschi, di 80 dalle 6.20, poi andiamo dalla V508, oggi mi ha rinfatto un altro microfono della Garner e niente, sono questo già per una volta per collezionismo, perché poi mi sto mettendo a punto un Alan 48, rimane quello, sul banco rimane la 48, perché una volta che mi ha voluto fare perché c'avevo un catalogo da quando è nato Claudio, dopo questa parecchia sto mi piacere di averlo, solo che sono passati tanti anni, questo si chiama la fiducia come il giorno che l'ha arrivato la fabbrica, mi sembra piaciuto, l'ho preso giusto per averlo, come ho preso quello di Piccoli, se lo stesso catalogo già, lo chiami il suo catalogo. Tutto per collezione, non mi piace, posso modulare anche in un canale o nel 10 o nel 21, l'importante è che ci sia gente già, perché ho bisogno di parlare con gente, non è che io modulo nel 10, ho fatto un discorso con Claudio, a tutti quelli, se ci sono io modulo per modulare con le persone, lasciando a parte tutte le scalamenzioni e tutte queste cose. Sono amico di tutti e tu mi conosci già. Tu l'altro giorno hai cercato persone grosse perché l'hanno sentito. Chi stavi alludendo queste persone grosse che fanno i ceramidi? Perché io a me non mi risulta di averne mai fatto ceramidi con te. No, nessuno già, per carità, l'ha fatto lui. Ceramidi nel senso che io mi riferisco alla persona che mette la portante che disturba a voi nel 21, tutte queste cose ho fatto io. già, lascio liberi a tutti di fare ciò che vogliono, non c'è problema. Però a me mi hanno detto che c'era, dice, c'era Capridura che stava parlando male sicuramente anche di te, perché ha detto due persone grosse che fanno i ciaramidi, che questo e quell'altro, a me non mi risulta. Io non mi pecco, a me mi hanno riferito così, così ti sto dicendo. Poi non so a chi tu stia alludendo con questa storia dei ceramidi, ma a me sembra di aver fatto separare tranquillamente. Se poi ho dei problemi con gente che c'è sul canale 10, non con tutti, non entro lì, perché se entro dentro posso lottare qualche amico, perché i canali sono di tutti, se no non entro a rompere le scatole, né a mettere portati di nulla, non ne ho mai fatto queste cose, ma ne farò. Ritorno nel mio canale e via, non c'è problema, nel mio, nel dove frequentiamo noi, là, che poi vieni libero per tutti. Ma è tutto così, io ho parlato anche di queste cose con le persone, io stavo chiaramente, stavo generalizzando senza fare nomi, in poche parole voglio dire che la frequenza è una cosa che non sa tutto, è una cosa già, che non bisogna creare queste cose, c'è il parchetto, la sera parlo con parchetto, parlo con Domenico, parlo con Carlo di Portatore, con perché una compagnia già, mi sta aiutando molto la radio, io guarda che diciamo è molto attore, ecco che mi ha dato una bruttissima notizia, poi io con la mia mamma, se non sapevo tutta la radio già lo stato, io parlo con tutto, con i clan, sono così tutti di quelli che hanno il baracchino che muovono in pace già, non è che molte volte tra la pianta non sei parte di occhi di nata. Dico solo con me che si comporta persona coerente e civile, la stringo solo con le persone lì, le persone false non mi piace stringerla. Ok, se io sono presso di essermi comportato quando vi ho visto che a te, che altri, sono venuti a trovarmi dei vecchi CP che non volevo da tanti anni e hanno saputo che io sono a stazione. Sto sempre, se avete qualche cosa dentro il mobile, levatela, che a me fa sempre carità. Io sono tanti anni, sono sempre battuto per la 27, hai capito, ho fatto sempre il meglio, cioè non voglio entrare in conflitto con nessuno, cioè la frequenza è libera, quindi io sono gente stato 10, parlo con 10, quello sempre detto anche la rendere l'altro canale, quando sono gente su 21, parlo su 21, su 40, e in troppo c'è gente che possa scambiare due chiacchiere, già non c'è chirurgia, non sono stato mai, hai capito, però come i ceramici già, in questo invito non fraintendete che io stavo generalizzando la cosa, senza prenomi, generalizzando chiunque si permetta a creare dei, come si chiama, che possono anche cambiare l'immagine. Si stia tutti quanti tranquilli, che non si cercano altre persone e cose, ecco, anche io entro tutti i canali, non è che mi limito, per me io non ho limiti. se trovo un amico, lo entro per salutarlo con le dovute maniere, nessuno mi deve dire niente, lo vedo così. Anche io già la vedo così, non bisogna essere meglio di nessuno, bisogna essere le persone che devono fare in pratica, perché la frequenza è per quello, perché su un microfono che parla attraverso la radio, perché? Perché è l'altro di rispondere all'interlocutore che si cercano nuove, come si chiama, per cambiare dove si ha, perché la frequenza è fatta così, non per ingelosirsi e per quello che l'ha fatto più bello, come si chiama io già, se posso avere un apparato che sta, se parla nel 10 e nel 21, con due cavalli mi va benissimo, queste sono collezioni di anni, io già lo sai che ogni tanto giro la testa quando vedo una cosa che la trovo che mi è piaciuta che non potevo avere prima, io sono un apparecchio che mi so 16 anni fa, hai capito? Non mi interessa, mi va bene anche un pugno a 6 canali a utilizzarne due. Tu lo sai benissimo come sono fatto, l'hai detto tu, hai aggiornati con le cose che ci sono attualmente. Però mi va bene anche una roba vecchia, un po' oneroso, non però, sono le persone che hanno il sento, bisogna che uno proprio, perché io non parlo anche che mi offenda, che mi... E allora se io preferisco molte volte togliere la tua guancia, non rispondermi a chiudere il tutto, ma molte volte quindi sono scaldati per la portante, per tante cose, già, ma deve essere preso da fastidio, se c'è il PSO che uno partecipa, che uno fa rompere le cose, quello lì l'ho sempre provato, però non c'è bisogno già di scaldarsi, si arriva sempre pacificamente a una soluzione, bisogna essere in pace, è una cosa bella, mi paracino, l'ho sempre detto, da quando l'ho avuto la prima volta, è una cosa bella di stare un po' assieme così già, non che uno poi, perché lei le canali c'è quello, non parlo, perché le canali c'è l'altro, non ci parlo, cioè, bisogna già molte volte, hai capito, avere un buon senso, trovare una soluzione a stare in pace, quello lì è la più cosa bella che dica, io l'ho preso così. Così fossi, io il primo che sono amico di tutti, però mi devono trattare da amico, se mi trattano poi pesci in faccia io non posso essere amico a una persona che mi tratta male. Che avanti Pierpaolo, è entrato Pierpaolo. Io sono d'accordo con quello che sta dicendo Capri 2 lì, no. Non ci siamo proprio, perché ci ho sentito io proprio sparando a zero su quelli dell'altro canale, quindi non te ne puoi negare, perché non sono né bugiardo né niente, non me ne frega un cazzo, me ne preso un po', non me ne frega un cazzo, di te e nessuno ti può immaginare, comunque se è pelato negli altri canali di non sparare di me. Basta, adesso non ti faccio neanche più parlare, basta, adesso non parli. Basta, me l'ha compreso, allora non lo vedi più gli occhi. No, dai, niente da fare, non passi più. Adesso. Lei si ammutizza, no? Sentiamo. Uia! Non sono fatto io così, no, già, a me, porto rispetto a tornare, non me ne fatto un cazzo. Sì, già, domani a Manzano. Sì. Non ti ho sentito, non ti sento più, no, e io te lo parlo, poi sono a fatto perché non ti sentiamo più. Ui. No. Ma tu lo senti già? No, ci parli tu. Non lo senti, anche io non lo sento più, no. Finito, non si sente più. Ma io so una cosa, che non può stare due ore negli altri canali girando le palle e poi, cioè, puoi fare la vittima qua. Ma stai scherzando, ma manco per idea, cioè. Prima, cioè, per non dire la lingua a posto, per non dire in un'altra parola, e poi bisogna essere coerenti, bisogna essere, non vanno bene certe cose, no? Ma veramente deluso. Cioè, non credia che sia così. Corto, devi andare corto, altro, corto. Dani, a te la parola. Beh, io glielo ho detto quello che dovevo dire. Hanno sentito che lui stava parlando di due persone grosse che facevano ciaramiddi. Io questi ciaramiddi non mi sento di averli mai fatti, non mi sento mai di averli fatti, né su di lui né su nessuno. Bisogna vedere lui chi intendeva. Ma se tu senti c'è poco da dire da fare, se tu senti quelli dell'altro canale, a me non piacciono perché mi ci stavano mettendo in mezzo, tutte bugie, non è vero? In mezzo, ma da quando? Sei una persona che non capisce neanche lo scherzo, figurati, e se scherzi capisce lui. A me non avesse capito lo scherzo per capire che cosa si stava parlando. Invece siccome te non comprendi manco una cinetta che vive dentro un tuculo, rinchiuso a 4 mura e non sa manco lui dove cazzo porta i piedi. Ciucucciu, buonasera a tutti. Buonasera Alessio. Faccio a tutti. Oppure Marrato. Grazie a tutti. Anche in baci a tutti quelli che sono in questo canale. E Marrato, buona a te. Grazie caro. Come ci godo. Avanti Gianni. C'è la Chiucca, non so se abbia chiuso. No, sono qua, io già stavo... Sto dicendo a poco che mi sta ascoltando. Pappagatto. Sto mangiando. Guarda, pompure, è Marrato. Grazie, caro, sto mangiando. C'era roba buona, ma c'è salata, mamma mia. Oh, altro che... polacca, Sì, Mara, si trova adesso. Tra voi non può essere, perché è polacca. Al limite è un fianco. Tu dimmi, comunque siamo correndo, è un attacco, facciamo un fianco all'altro. Comunque la patatina al limite ci andiamo dopo, da quando ho finito ci dopo rientro e ti faccio sapere, no? È volgare però. Come va l'indica di Ozusa? Se io ho parlato bene, meglio lo sai. Quindi, patatine. Un pacco di patatine. Poi le patatine si mette troppo usa, poi diventa troppo oliosa, no? Come va l'indica che sono oliosa? No, olio non ce n'è. Sono mette grasso di vacca. E vado a letto a Fugio allora. Grazie caro. Ai Gianni, a te il Micchi. Alessio. Dimmi. Saputo di Torres. Dove chi? Alla Verde. No, la verità no. È deceduto oggi, stamattina. Mi dispiace, la verità mi dispiace. Vabbè, andiamo al limite. Qualcosa faremo. Guarda, allora, domani a mezzogiorno al Buon Pastore. Ma di altro c'è? Buon Pastore, fronte all'autopark. E vabbè, lui mi tira che uno già non è a dire. Paga, mi è morto di infarto. Ma vabbè, pazienza, cosa vuoi dire io? Purtroppo così, quando chiama. Oh già? Ma come c'è Fritellone? Fritellone? Fettellina la conosco. Fettellina, anche mi fa molto via su Facebook. Sai che sono che conosco io, già te lo racconto una volta che cosa ho fatto. Ho tolto una macchina capottata. Ho messo la sua foto su Facebook. Ho visto. E via, a poco che sono la sua foto. Fatto una parola di cinese ci ha garato, ma più scippato, vabbè. E forse lo stiamo dicendo lo stesso, io sto dicendo quello biondo. No. Tondino. Occhiali, bottino. No, no, non è quello che dico io allora. Il frittellino che dice che dico io, sa calore. No, no, no. Ma questo... fatta guardarlo su Facebook, non vedi. Ehi, non l'hai vista Cimbrana? Ma Cimbrana vaggio. Dentiera. Capito. Penso che vorrei farlo, dentiera. Mamma mia, ma sai cosa ho fatto? L'ho ingrandito. L'ho fatto vedere a Marco si è insultato quando ho fatto vedere la dentiera. Mamma mia, povera ciappista l'ho fatto. Vado, e comunque mi ha fatto vincere una volta, c'è la festa del latte dolce, ma io ho ripetito i biglietti della lotteria, ma io non vinco mai tutto, beh, ci ripeti da me, vedrai chi vinci, ho vinto un martini e un coso, due bottiglie di liquo. Luisa, tu volevi comprare? È giusto, vabbè, allora, mi sai? Guarda, ci vediamo trovato, andi voglio qua. Amico, te sono su Facebook, cioè, cacchio la posto, non c'ho la Cimbrana. Ma vero, pure su Facebook. Aspetta, non c'ho la Cimbrana, la trovo là. Una di voi in ambulanza la ci ha legato. Dunque, ci siamo due. Sì, a voglia. Per conto lo portavo, sempre per come tiri. E qui mi devi subito di 13, Buruette, la calendata, mamma mia. Fucci, fucci. Oh vabbè, avanti, Radio Vera! Te cosa c'è di Cimbrana? Che ma la novità o poi sempre la solita roba? No, niente novità, sempre la solita roba. Allora non ci parlava neanche, non ci ti visti. È dentiera, con l'erba bambina. Che schifo, la bambina attaccata. Sono atti, sì. Fuschio. Ma ecco, ha cosito, vero? E ballando, cazzo di... E giocando a pallone. Ho visto la torre, se non l'hai vista. Io l'ho visto già. Vedi a me fa buco in chimi. Vedi a maglietta, le calzoncini, lo vado a giocare. Il fondo subito la torre. E io lo so, anche io lo portavo pure in altri sporti, la torre, la guida. E vabbè, una volta non so che l'avevo visto affacciato alla finestra col coso fuori. Si stava masturbando, hanno chiamato i carabinieri. Sì, sicuro. E una volta la torre non viene incontrata la fine a camera, aveva mancato un capo. Ma così no, non va bene, come quel senegalese che hanno picchiato, l'hanno fatto in sangue, io non ricordo il portici di Crispo, cazzo. Prima ne hanno attaccato l'accendino, lui gli ha detto, tornami l'accendino, mi ha rubato l'accendino, mi si è ribirato la nel culo. Però vabbè, una delinquenza che sta nascendo in questi ultimi mesi, in quella zona, ma fa passare un braccio a fiamme. Sa stroncarla subito la delinquenza, andare in borghese col manganello, la metà giusta, così ripassa la gara. C'è come un drastico, io ci sto per la ciafiamme. E paga. Adesso c'è domani, c'è la fiaccolata, non so cosa fanno in piazza. Quelle sono tutte immaginate, devono fare altro, non quello, che cazzo me ne frega a quello che amava qualcuno. Cioè sono delle cose totalmente così, come aumentate il culo del muro. Beh, Pierpa, diciamo che è un modo per essere solidari a chi ha preso il colpo, far capire che non c'è né razzismo, né sassa né delinquenza, che sono solo dei gruppi che... Questo gruppo qua che già da tanto che lo segnalano in Piazza Castello, ma mi sembra che le forze dell'ordine non stiano facendo niente, hanno picchiato altra gente, rompono le scatole alla gente quando passa, è sempre il solito gruppetto. E vabbè, solidarietà sì, ma la solidarietà è una maniera, cioè penso che ce ne fa il giro, un uomo elastico, la solidarietà, che se no, tanto meglio fa una fiaccolata, non è che risolve un problema, un problema se lo risolve alla radice, cioè trovarli e mandarli a voce. Sì, per qua, ma non è la gente che deve risolvere il problema, era le sole forze dell'ordine. A quanto pare ancora non li hanno trovati, sicuramente avranno mandato qualche controllo, ma nel momento che fanno non li trovano, fate isso. Dove fatti le fisse, così almeno si allontanano. Beh, ce n'era uno in piazza una volta con la sua greffa che passava, dava gli schiaffi ai ragazzi e stavano parlando tranquilli, andava, dava gli schiaffi e se ne andava, ricudì a forse. Una volta c'era questa greffa, sono stati quattro ragazzi e uno c'era proprio la faccia al soggetto con gli occhiali grossi e cosa. Se passa questo qui, li molla un ciaffo, si gira lì su di pumpa. Una furia era picchiando, cazzo. Parì è sfuggito, ma noi ragussino, cavando i biciti, comincia a codire la giga, ma salì da recuti, io dico che gli è baciata la gara rompì e cattela la iena. Poi questa è la gente se vuole fare ci sono altri modi, mi spiace per i gestori locali fare quanto c'è, però come si ritornasse come era una volta, alle 10 chiuso la totale, poi finita la vincita, anche nata di uscita, è nata giocata a casa e a casa. Per qua non è nel locale che è successo praticamente fuori. Questo qui stava vendendo fuori sotto i pollici di Crispo, sono andati, gli hanno rubato gli accendini, questo si è lamentato, uno di loro è entrato dentro, lui è entrato nel bar per dirgli dammi l'accendino, mi ha rubato l'accendino, ma ha detto così non picchiare. Sono d'accordo con te, ma queste cose esistono, là che ci sono i bar attivi tutta la notte, ci sono i bar attivi, bevono, poi non ragionano di più, per gente che comincia a ragionare diversamente, da cui si impasticano, infatti, invece se si comincia a dare i locali, non vale più niente da lasciare in giro, ma ragazzi, la gente è stata più ritirata. No, mi pare che è successo di sera presto anche quello lì, non è nemmeno in orari tardi che è successo. Non è proprio delinquenza comune, teppismo e roba del genere. Avanti a tu. Scappa. Per come la penso io sono fatti dei gran minchione, perché vedendo una cosa del genere, quello dell'edicola, quello del bar, si dovevano unire insieme, prendere un bel bastone e spaccare la testa in due. Non lasciare massacrare una persona così. E ma sai come tante volte non si vogliono compromettere, loro dice magari dalla ragione ci passiamo al torto. Non è che la pensano tutti così. Certo, se parlare non potevi farlo perché erano in massa, erano in tanti via tu. Io sai, è quanto venire anni che vedrendo, si univano tutti insieme, ma cosa stai facendo? Pigliavano questo posto di rosso, non avevano manco il tempo, pigliavano e li spaccavano in un capo, perché quella gente è mondezza, vuole solamente spaccata la testa, li vuole. Cioè, quando mai tu vai a rompere le palle a gente che non sta facendo nulla e non ti sta neanche cercando, cioè la gente è tranquilla. Ma stiamo scherzando, li vorrei, chissà niente, li vorrei abbigliare e spaccato un capo di netto, perché nelle gente mondezza, gente di merda proprio, scusando dalla frase. Oh Gianni, yeah. Però c'è da dire anche un'osservazione, a me per carità io non sono contro nessuno, tutti gli uomini sono uomini, le donne sono donne, però c'è da dire una cosa, che circa 20 giorni fa, se non sbaglio, è stata acquistata anche una partita dei vigili urbani, gli ero spaccato la macchina. 3 giorni dopo hanno aggredito anche una ragazza e non se ne è parlato così, c'è stato un trafiletto del giornale e non se ne è parlato per niente, fiaccolate niente. Dopodiché sono stati anche picchiati altri due ragazzi che passavano normalmente, sono stati fermati e picchiati e non se ne è parlato. Ma dico questo perché queste icone sono quelle, la fiaccolata se ne parla così da un paio di giorni già. Di queste qui io avevo sentito, sì, di questa ragazza l'avevo sentito anch'io, ma per voci di popolo e non al telegiornale e niente. Detto qualcuno mi ricordo, questi tempisti in Piazza Castello sono stati già segnalati da parecchio tempo e ancora non sono riusciti a cavarne bene. E appunto te lo dico io, non ho detto il giornale, ma c'era un trafiletto piccolino, parla di tempista, che dice una ragazza che è tutta piovuta a terra, perché in ospedale, e boom, e basta, non ho pensato altro niente. E poi no, c'era il giorno, il trafiletto della patrulla dei vigili urbani che era intervenuto non so per contravvenzione alla macchina, gli hanno aggrediti, ma loro gli hanno spacciato anche la macchina, e basta, è finito da un quarto e poi quegli altri due che sono stati aggrediti, presi a calci e rincorsi, che sono dovuti ricorrere le stesse cure, basta, è finito lì, e non si è parlato più, che sono 30 che mi sono fuori bene. Ma sei il momento per attaccare te? Perché posso anche passare. Chi sia neanche fa con lui, carico il piede. Guarda, io ti ricordo la sera che è successo quello, c'è stato qualcuno che mi ha fermato, diciamo, se no era andato a pigliare un dili e passare i ghibli in piazza dei Cigni. Sì, vabbè, là. Quelli lì magari non erano teppisti, erano solo giocattati e basta. No, non erano giocattati, erano i delinquenti pure. Perché quelli col tifo non hanno niente a che fare. Ma se fosse per me io la sera sarei passato con un bel dili. Danno fastidio, questa cosa avrebbe dato fastidio anche a me, non te lo nego. Molto fastidio mi dà, molto, molto, molto. C'è un raggio di salvaggio di dopo il giro che era la nata, ma io gli avevo già accelerato, gli umiliava sotto, e credo me la fotti assai, no? Tutte le macchine che passano si mettevano a rompere le palle. E grida e fai e muovi le bandiere e sventola, e ma che cavolo ti metti a rompere le scatole alla gente andare sulle macchine? Ma io avevo detto un punto già visto l'accelerato, quello che capitava sotto da voi, in cammino da cosa arrivare di Vites, e guarda, anzi ho avuto anche per me, io subito ho accompagnato a voi, per me la mente è fatta. Le cose anche sul rettilineo, attento ti faccio un metro, lì avessi il piglio la cuore. Sì, vabbè, ma dopo stiamo dentro per chiamarti la gente e che a volte ne frega per queste cose. Per la fare la macchina è quelli di acciaffi, non fate tirare un bello, già va lì. Ti stai dicendo che l'unico momento da far risolvere non era quello, quindi non me ne tornate più a fare macchinate del genere. Ma pesci. Hai capito cosa ho detto? Io ho capito, sì, ma pensavo stessi scherzando. Evidentemente non stavo scherzando. Come la penso io, uno si deve tenere le mani a posto, si deve tenere. Tu puoi festeggiare quanto vuoi, però tu non vai a toccare le altre persone che non c'entrano niente. Dal festeggiamento vuoi fare del male agli altri. Quello io non lo sopporto, perché se tu fai così, io in quel momento lì, se avrei avuto una puffa, gliel'avrei tolta fuori, perché cavolo, c'era proprio da farglielo. Ma gaba, lo so, c'è gente che esagera, che non sa mai contenersi nelle cose. Tu non hai diritto di andare a rompere le scatole agli altri. Tu fai quello che devi fare. Nessuno ti sta rompendo le scatole. Cosa devi andare a dire, a prendere colpi la cosa? Oh, brutto miserabile. Come ti permette? Se io vado dietro la porta di casa tua e te la prendo a calci, ti piace? Se io così senza, ti faccio un parolone, Gianno, se io così senza che mi abbia fatto niente, no? Prendo uno di quelli lì, fa la casa sua, non trovo il padre, la madre, la sorellina anche, che ne sono di 5 anni, la prendo a calcio la faccia e me ne vado. No. E da me, non è nada. E noi non siamo cresciuti, dove sei andato? Ciao. Mal di testa. Abita mal testa al mio, sto bene. Come hai fatto? Come coniglio? Io sai che faccio veloce, come conigli. Sono il brasiliano, spagnolo, quello che è. Sono Mariano, Mariano, sono Mariano, pazienza. Scusa. Oh Gianni. Le cose sono tue. O non ce l'ha fatta lui. Oppure va via troppo fianco di culo. Oh Gianni, ci ho fatto di gatto, già lo sai. Beh, adesso per la sera vi ho rotto troppo le palle. Me ne posso andare tranquillo, là. Sinistra, destra, centro, quello che è. Secondo Urbano, non lo vado a battere, è ricco. Uno si deve adeguare. Tu di... Cappa. Ma... Allora, mi capita. Cappa di aro. Ma, insomma... Cioè... No, non ti fanno vogliare fare un culo a niente, no, scusa, non mi sembra neanche tanto giusto. Cioè, basta una borsa, basta, prendi il discorso, se ci stai. Ma quando c'è tante volte che insisti il discorso, su un altro canale, ma la più bella, bisogna fare un puro, se ci rende le balle, e quello è il punto. Ma ti gatti due, in casa doia, non andare a spettacolare, a rompere le palle, perché non va bene, pur dicendo cose che non sono assolutamente vere. Cioè, mi si scassano, a me mi si tirano le palle all'inverso, che non va bene, vabbè, dai. Chiudiamo il discorso che sennò comincia a dire parolacce. Andare, cavolo, piani e pietra. Parlavi di donne, Antonio, ripassa tutto. Capo, no, questa è l'opinione mia, perché volevo essere preciso, volevo essere. Basta una volta a pigliare il discorso, è anche bene non dire cose che non sono, perché bisogna stare attenti, nessuno è andato a compulsire lui a dire un cazzo. È lui che si è inventato le cose. Come, guarda, lasciamo perdere perché non voglio parlare. Anche mamma mia, guarda, lasciamo perdere. Non ti arrabbiare. Parroni non venne in giro. Gianni. Che te devo dire, Ali? Faccio bene a tutti. Organi. Siamo gente che vogliamo tenere le palle in pace, non vogliamo disturbare nessuno. Solo che se qualcuno ha trattato un po' di più, l'abbiamo finita lì. E lo sa benissimo che non deve più rompere il coglione. Però, cioè, l'ha capita, perché sembra che sia una persona intelligentissima, però qualcuno non l'ha capita ancora. Vabbè, va, lasciamo perdere. Riesci per me? Cosa vorrei? Che mi sta bioccando. Ti auguro una buona notte. No, vi ascolto, ogni tanto intervengo. Pagava. Ma come faccio io? Io sono detto, bella, lo devo fare, diciamo te. Ascolta la te, no. Aspetta che guardo secondo quello che c'è in camera. Ragazzi, ma Lucariello dove cavolo è andato a finire? Non lo so. Ascolta, per fare un servizietto, poi ci sentiamo dopo un'oretta, un'oretta e mezzo, quando finisco là. D'accordo, mi raccomando, fate maniera, cioè, non pensate male, devo fare il babbo malito. Oggi, dopo pranzo alle due, mi sono dedicato a fare la torta già. Come l'hai fatto? Ho fatto allora, kermes, prima pasticcere, poi sopra gli ho messo la panna e... sta bene, non ha sfruttato il cacao. Io l'ho fatta una volta e mi sono detto, ma fatta bene brutto, è riuscita buonissima, è riuscita. Scappa, ma sei gonfiata bene. No, l'avevo già preso perché il capo di nuovo è buonio, beh. Ho già preso il pan di Spagna, quello già fatto, mi ho passato il coltello per tagliarlo bene, l'ho fatta così, dai. L'hai fatta con la crema lenta? Già, la crema l'ho fatta io. Allora, sta buona. È facile, te la faccio assaggiare. Ma fastidio. Sta buona. Era un so. Va. Io faccio bene le cose, non le faccio a cazzo, cioè, ma penso molto bene. Poi ho fatto quell'altro dolce che faccio io, adesso li faccio con la crema pasticcera e le savoiardi, e poi sopra l'ultimo ci metto la panna e il cacao sopra. E mangiamo panna dappertutto. Buono, eh. E poi li sono imbevuti nel caffè così. Lo so che sono buone, cosa è buona, ma mi va di male, ma di per dire c'è la tiramisù da noi al 50%. È una specie di tiramisù, è quello che ho fatto io, dai. Dove penso una pappa inglese? Mi costava una vaschetta €1,30 mi pare. Chiappa. Quella che ho fatto io. Cosa? Un po' di più. Ne ho un bel. €10 Non lo so, non lo so quanto è. Ma ti sa vogliare c'è un mese. Che ti direte che a fare dolci? No, ci abbiamo pensato bene a quelle cose. Poi lavoro molto in una certa maniera. Tutti i cose. Ehi! Stavo rispondendo a mia sorella. Sai che hai fatto la torta? Sì. Vedo. Sorella, lo sa. Sorella. Che hai fatto la torta? Sa. Che ha fatto la torta? Fatta tu la torta. Ho fatto io la torta. Ma lo sa lì che l'hai fatta. Che lo sa, l'ho fatta pure un'altra volta quando era il compleanno di babbo e di nonna. Ah, quindi da dove l'hai presa la ricetta? Fatta io l'ho fatta. L'ho presa a testa mia. Caffa. Ho comprato le cose, l'ho fatta io. Aschia, la chiamiamo torta a bombolo. Gabba. No, comunque, guarda, se l'assaggio è buona, eh. Pianto, ma la torta era già pronta, là. Tu hai fatto solo il condimento. Tu sa per fare bene la pasta, proprio. Ma ci vuole un bel tempo già, è cosa la via, cioè, non mi ti contate. Ma la facevami, la prendevo in giro. Non girava la pasta a mano, che l'amalgamavano col braccio, trattata dava le sculaccioni, diceva sfogati, sfogati, così almeno non picchia a noi. Io devi così. Ma mamma quando faceva la torta, teva l'impasto in una bacinella grande grande, un recipiente della cucina, poi la sculacciava per girare l'impasto. E dicevamo, sfogati, sfogati, così non picchia nulla. Spiritosi, gli occhi si colpi, poi in fretta. E cavolo. E io, solo che non c'ho avuto tempo, se no stavo quasi inventando. Stavo andando a giorni, stavo cercando la ricetta dei papacini. Io sono buoni, a me mi piace non. Gamma. Un giorno la vado a cercare e rivolto. Questa non ho mangiato uno solo che infatti una mia collega le ha portate a assaggiare. La Marco Biazzuzzo ha detto buono, sì, buonissimo, non ce la so poi dire. Sono troppo delle volte. Ma io ci avrei voluto provare. Cioè sentire bene l'anice. Tu sentire bene l'anice, l'uva passa. Non so. Non ha fatto bene ieri. Ma secondo me ci vuole. Se uno è abile e bravo già ci riesce. Io se mi metto ci riesco a farlo. Yeah. Io non li ho mai fatto, ma sono sicuro che se li faccio mi escono bene. Non aveva niente. devo riguardare la ricetta. Ma guardi le mette, Oh, a me già piace fare queste cose. E cucinare. Che fa? Anche a me cucinare. Anche a me. Però no, diciamo che non c'è il tempo, no. Io dove è il camionetto? Io la domenica mi metto a aiutare. C'è tanto di pollo, quello che c'è da fare. Già, anche io la domenica così mi metto, comincio a preparare il sugo, a fare tutte queste cose. Cioè, mia suocera mi ha mandato questi ravioloni di grassi, di cibo di bene. Buone. Fatto con gli spinaci freschi, la ricotta fresca del pastore. Adesso voglio vedere. La moglie le sa fare. Se la si faceva per la pasta, quella che cucina lei non la comprano, la fa lì. Che la fa? Sì, già lo so quello lì come si fa. La pasta. Non me la ricordo molto bene, ma un tempo qua lì, quando non era un po' più cosa, si facevamo. E io andavo a darle una mano. Faceva le gnocchi, faceva la pasta e poi faceva le gnocchi, aveva trurigato, leva col dito, li faceva un ben freddo. Non c'avevamo quella fare per le ravioli. Che cosa? Per farle giuste, come si chiama? Chissà, quella fare con la ruota per tagliarla. Mito che sto dicendo. Lasagnatrice. Ehi, c'avevo il macchinario. Ho preso anche il motore, mi sembra, se non ricordo male. Avevo il macchinario, però per fare i ravioli quando erano tutti belli, c'è quel taglio particolare che ha il raviolo, no? Avevamo proprio quella rotella per tagliarlo. La tagliatrice, quella che usa il tu per fare i disegni nelle macchine. Chissà cosa, La tagliatrice di vecchia. E cavolo. Non c'è molto di attrezzi. Lo so, ci sono gli stampi, là. Quella per fare ravioli rotondi, eccetera, eccetera. Cava. Certo che l'avrei voluta fare. I ravioli? Anche... Cosa già? Non vuole anche dei gnocchetti freschi. È un grido già. Facevo la pasta all'uovo, le tagliatelle. La moglie la faceva anche, la pasta fresca la faceva anche. Sì, ma un giorno te lo ricordi che sono venuto, aveva fatto il ravioli, stavamo aprendo l'apparecchio. È vero, è vero. Me lo ricordo ancora. Raga. Portato le chiappe. Vero, è vero. Sì, Francesi. Se tagliava appena fatti. Che io me l'ho comprato quello, lo sa. Comprati? Chiavi esagonali, sì. Ma cos'hai preso? GS, Cubanario, Beta, cos'hai preso? Vuoi dire quello è francese? Ha detto, che marca hai preso? Non me lo ricordo, non sono un Beta di certo. E noi io voglio comprare un set di cacciata di Beta. Buone, Ma vanno bene ancora qui. Non credo, ma non credo. Volta una scatolina, 30 euro, ma volevamo dare. Cosa? Cacciata di Beta. Ma dai, io ti saluto già. Buonanotte. Io, ciao ciao, buonanotte, ci sentiamo. Tutto ruide, un po' ne ho. Da tutti, ciao ciao. Ciao, attigliate, dai. Ciao ciao, gabba.